si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno, ben ritrovati. L'appuntamento su Radio 24 della domenica mattina, la tarda mattinata, l'appuntamento con le buone notizie. Cerchiamo, raccontiamo storie di persone che si rimboccano le maniche e insomma cerchiamo di invertire un po' il trend settimanale delle cattive notizie. E allora questa settimana aspettiamo i vostri interventi all'800 24 00 24 in diretta. Tra pochissimo parleremo di disoccupati, abbiamo delle notizie per voi, cari amici, senza un lavoro. E poi torneremo sulla manifestazione Salva Ciclisti di ieri a Roma. Avrete visto, sentito qualche cronaca e vi chiederemo se gli automobilisti italiani sono pronti ad andare a 30 km all'ora in città per evitare la strage dei pedoni e dei ciclisti. 800 24 00 24 tra poco in diretta. Cominciamo con qualche segnalazione della settimana. Dicevamo notizie per i disoccupati. Siamo a Massarosa, in provincia di Lucca, disoccupati ma anche anziani, sconti sulla tassa dei rifiuti, la TARSU per i pensionati, lavoratori parasubordinati, disoccupati e beneficiari di ammortizzatori sociali sarà scontata del 60%, è il risultato di un accordo siglato tra l'amministrazione comunale e i sindacati. Potremmo quasi così istituire una rubrica sulla mobilità fiscale, insomma andare in cerca dei comuni dove conviene abitare per pagare meno tasse, perché di qualche giorno fa, per esempio, l'altra buona notizia che riguarda la Sardegna. Siamo a Tula, in provincia di Sassari. Il sindaco ha promesso di neutralizzare l'IMU, la tassa sugli immobili, l'ex ICI, grazie ai proventi che verranno dalle energie rinnovabili e dal parco eolico. Viene dal Piemonte. Avevamo già parlato qualche settimana fa delle iniziative, questa è l'ultima, dei comuni per dare la cittadinanza onoraria ai figli degli immigrati nati in Italia. Avevamo detto un investimento sicuro sul futuro, perché così si attirano nella comunità anziché fargli vivere la cittadinanza italiana come un ripiego. E allora Michelino, in provincia di Torino, domenica prossima alle 15 al Teatro Superga, una nuova giornata dedicata ai figli, bambini che non hanno colpe, bambini degli immigrati, a cui sarà concessa la cittadinanza onoraria, l'ultima iniziativa di questa serie, ce ne sono state molte in altre città italiane. Un'altra notizia farà felice gli amici degli animali. È la storia di Ettore, il labrador di 2 anni, sottratto a un canile dove veniva addestrato per i combattimenti, gestito dalla criminalità organizzata, e adesso è diventato un cane poliziotto, un cane antiesplosivo. Insomma, si è addestrato, fa una vita sicuramente migliore questo cane, questo Ettore, e lavora all'aeroporto Leonardo da Vinci, all'aeroporto di Fiumicino. Insomma, una buona notizia per gli amici degli animali. Aspettiamo le vostre notizie sul profilo Facebook, si può fare /radio24, alla mail si può fare radio24.it e durante la settimana anche alla nostra segreteria telefonica. Per quanto concerne l'ICI, è giusto che si paghi, ma perché non la fanno pagare in proporzione al reddito? Per esempio, un pensionato che prende 15.000 deve pagare quanto uno che ne prende 40. Non mi pare giusto. Grazie. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Looking for a job. Parliamo, come abbiamo anticipato, di notizie che riguardano anche chi è senza un lavoro. Parliamo di un personaggio che a Padova sta già diventando un mito. Da operaio cassa integrato e poi per l'appunto disoccupato è riuscito a riorganizzarsi una vita professionale aprendo un centro shiatsu, sì, un centro per trattamenti shiatsu. Adesso collaborano con lui altre 3 persone, si è allargato, insomma curano tra l'altro le persone che hanno patologie legate alla depressione. Sarà forse proprio facendo facendo questo, cioè incontrando gente un po' depressa, perché magari aveva perso il lavoro, e succede spesso di questi tempi, che a lui è venuto in mente di offrire trattamenti gratis proprio ai disoccupati, insomma un'iniziativa di solidarietà, memore probabilmente del suo recente passato di disoccupato a sua volta. E allora lo salutiamo, gli diamo subito il buongiorno a Marco Marangon. Buongiorno a voi tutti. È così che è successo, cioè incontrando gente che veniva da lei in difficoltà economiche, le è venuto in mente di dare una mano ai disoccupati? Sì, più che altro ripensando alla sensazione che ho provato io quando ho perso il posto di lavoro, insomma, ho pensato di dedicare un po' del mio tempo a quello che poteva essere un qualcosa che poteva essere utile a una persona che aveva un problema come la perdita del lavoro. Certo, è il problema proprio di questi nostri anni, se vogliamo, la disoccupazione. Lei ci è passato, come va? Le riconosce sulla soglia quelli che stanno per arrivare da lei, che sono senza lavoro? Certo, certamente, è un problema che si ripercuote sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista psicologico. E le ripeto, io avendole provate di persone quelle sensazioni, di persona, quella sensazione di malessere che si può provare durante una fase così particolare della propria vita che è la perdita del lavoro, quindi ho pensato bene di dire perché no, magari nel mio piccolo, nel nostro piccolo come centro, dare un contributo a quello che poteva essere un aiuto a una persona che sta provando questo particolare malessere, insomma. Senta, ma dopo che è uscito anche l'articolo, insomma, sì, lì nella sua città, Padova, e si è cominciato a parlare di questo, adesso i disoccupati stanno arrivando davvero? Sì, come va? Per la prima, domani ho i primi trattamenti gratuiti, quindi è una gran soddisfazione, quindi c'è un riscontro positivo per questa proposta. Quindi abbiamo già due persone domani che saranno in studio da noi per questi trattamenti gratuiti. Ecco, ma lei è un po' un personaggio, la sua storia sembra quasi uscita da un film di Ken Loach, il regista inglese, dove gli operai si riescono sempre, certo, a reinventarsi. Lei, io però... sono stato licenziato alla fine del 2010 e nel frattempo ho passato il classico iter, un anno di cassa integrazione ordinaria, un anno di cassa integrazione straordinaria, poi licenziamento, e nel frattempo io mi ero diplomato come operatore shiatsu presso la federazione e in aprile dell'anno scorso ho aperto il mio centro. E una cosa importante è stato appunto quello di trovare persone con cui creare questo nuovo particolare nella provincia di Padova che è il nostro centro shiatsu. E quindi l'unione ha fatto sicuramente la forza. Con me Nadia, che è la mia collega, anche lei operatrice, l'altra psicologa e una esperta in intolleranze alimentari, e quindi siamo partiti come centro tutti belli uniti per affrontare una nuova avventura. Senta, ma se voi riuscite o riuscirete, insomma, a curare gratis qualche disoccupato, vuol dire che il resto degli affari vanno bene, se no come fareste, insomma? Il periodo di crisi lo stiamo vivendo anche noi come tutte le attività, insomma, lo sentiamo anche noi come periodo particolare di crisi economica. Noi abbiamo dato questa possibilità alle persone di rivolgersi a noi gratuitamente. Ovviamente non lavoreremo unicamente gratis, ma saranno magari dei ritagli che dedicheremo al nostro tempo, insomma, per avvicinarsi a queste persone. Senta, ma uno come fa venendo lì da voi a dimostrare di essere disoccupato? Ci vuole un documento, qualcosa? Una bella domanda. Guardi, sinceramente io andrò di fiducia. Confido nella persona e nella bontà della persona. Però ci dovrebbe essere, non so qual è la sua opinione visto che si è imbarcato anche in questa avventura, ci dovrebbe essere un non dico sul documento, uno scrive disoccupato forse sarebbe troppo, però un titolo, sì, per avere poi accesso a delle prestazioni con dei trattamenti di favore, sconti, penso ai mezzi pubblici, anche alle tariffe, nei servizi, che ne pensa? Questa sarebbe una gran bella iniziativa per andare incontro a queste persone. Quindi noi nel nostro piccolo, io andrò di sicuro di fiducia, non mi metterò a chiedere documenti, però sarebbe bello che questa iniziativa potesse dare un po' nel nostro piccolo un esempio a come ci si potrebbe porgere nei confronti di queste persone, insomma, di questa categoria. Poi una cosa importante, sì, da ricordare, insomma, secondo me è importante anche dare a una persona la possibilità, anche una sola ora alla settimana, ma la possibilità di staccare la spina, quindi il discorso di non pensare alle problematiche, quindi concedersi un'ora di pausa, secondo me è rigenerante. Ecco, ma a questo proposito, perché voi avete fatto notizia perché offrirete trattamenti gratuiti, come abbiamo già detto più volte, per i disoccupati, ma vista la sua esperienza, i pazienti, le persone che vengono da voi, chi è che oggi ha proprio bisogno di un massaggio rigenerante? Non so, anche l'imprenditore in difficoltà, la casalinga che ha il portafoglio sempre più sgonfio. Di tutto di più, quindi io ho riscontrato comunque un gran malessere anche nelle persone, anche in quelle persone che sembrano apparentemente le più realizzate. Quindi il mal del vivere esiste in qualsiasi categoria, insomma, indipendentemente dalla propria realizzazione personale. Va bene, grazie. Allora, insomma, disoccupati di Padova, fatevi avanti e riceverete un trattamento shiatsu gratuito da Marco Marangoni. Grazie per essere stato con noi. Grazie a voi. Grazie. E buon lavoro. Grazie, buona giornata. Insomma, 800 24 00 24, aspettiamo i vostri interventi in diretta, anche perché insomma i disoccupati sono solo una delle categorie più colpite dalla crisi, più stressate. Ci sono, dicevamo, gli imprenditori, ci sono i precari, ci sono le casalinghe che hanno il portafoglio sempre più vuoto, devono portare a casa la spesa lo stesso. Allora vi chiediamo, 800 24 00 24, voi a chi offrireste un massaggio gratis anti-stress? Si può fare. Cronache da un paese migliore. Sotto questo sole è bello pedalare, sì, ma c'è da sudare. Sotto questo sole rossi col fiatone, neanche da bere. Allora, era un po' questo il clima ieri, per chi ha visto le immagini della manifestazione dei ciclisti o per chi era più fortunato e c'è stato, insomma, la manifestazione Salva Ciclisti, decine di migliaia di partecipanti, una bella giornata di sole, c'erano anche molti volti noti, Margherita Hack, gli scrittori, Susanna Tamaro, Marco Augeri, cantanti, Giovanotti, Max Pezzali, c'era anche Paolo Belli, l'autore, insieme a Baccini, di questa canzone Sotto questo sole qualche anno fa. E, insomma, facciamo cambiare strada all'Italia, è stata la sintesi di questa manifestazione voluta per chiedere più sicurezza per i pedoni e per i ciclisti, soprattutto che ogni anno sono molti quelli a essere uccisi proprio dalle automobili che sono molto più pericolose di loro naturalmente nel traffico cittadino. Ne vogliamo parlare con Giuseppe Piras, buongiorno. Buongiorno. Architetto a Torino, tra i fondatori di un'iniziativa che si chiama Ciclo Officina ABC, e ieri era sul palco della manifestazione di Roma, tra l'altro, e ha raccontato l'esperienza di Torino. Prima di tutto le vorrei chiedere, è forse la prima manifestazione nazionale dei ciclisti, insomma, se ne parla a questo livello, forse per la prima volta, almeno di questa portata? Sicuramente una manifestazione di una portata che non si era mai vista, sia come numeri, sia anche per l'attenzione che ha riscosso sui media. Di attività di questo tipo ce ne sono da diversi anni, anche ci sono state anche a Torino, in Italia, ma veramente la sensazione che l'Italia possa e stia per cambiare strada su questi temi. La potenza di persone di ieri l'ha dimostrato, insomma. Quanti eravate alla fine? Qualcuno ha detto 50.000? Difficile calcolarlo, perché praticamente tutto, per chi ha presente Roma, da Piazza Venezia al Colosseo, le vie laterali erano invase di persone. Poi valevate doppio perché avevate anche la bicicletta. C'era, no? La bicicletta, sicuramente qualche decina di migliaia, senza azzardare numeri mirabolanti, ma tante persone felici, festanti, pacifiche, ed è una cosa abbastanza emozionante. Tutto nacque con il manifesto del Times, credo, di qualche settimana fa, Salviamo i ciclisti. Riassumendo che cosa diceva quel manifesto, che cosa chiedete con queste iniziative? Ma sostanzialmente delle cose molto semplici. Il manifesto del Times è partito appunto con 8 punti programmatici da presentare al governo inglese. La stessa cosa è stata fatta in Italia, è un progetto di legge in questo momento in Parlamento. Si chiede sostanzialmente la sicurezza delle strade, quindi di avere delle piste ciclabili dove non è possibile avere invece delle zone 30, che sono delle zone a traffico rallentato, che permettono una vivibilità maggiore delle strade. Cioè, zone 30 nel senso con limite di velocità 30 km orari? Con limite di velocità 30 km orari, è il limite per cui anche dovendo subire un impatto c'è la possibilità di non morire sul colpo, ma di farsi soltanto male, insomma, è già qualcosa. Perché secondo voi nelle città ci sarebbero degli spazi, delle zone più centrali, più strette, a circolazione, diciamo, minore, dove si dovrebbe andare in questa direzione, cioè rallentare, un grande cambio anche di mentalità sarebbe, no? Perché di mentalità, sì, anche di forma urbana. Teniamo conto che la cifra dei 50 km orari, scusate, del codice della strada in realtà è abbastanza falsata. La media nel traffico di Roma o di Milano nelle ore di punta è molto più alta, è molto più bassa la media. È più bassa la media reale, sì, poi diciamo ci sono punte dove la gente è molto più veloce. Accelerazioni molto forti. Avere un flusso, un traffico più fluido che tiene una media di 25-30 km orari sarebbe guadagnare anche in velocità per le automobili, non sarebbe ridurre. È una cosa che bisogna spiegare. Sì, anche se poi quelli che comprano i macchinoni, che spendono migliaia di euro per avere questi bolidi, e poi chi glielo dice, insomma, gli prenderà un colpo secco perché spendono un sacco di soldi per queste macchine, poi non possono utilizzarle più da nessuna parte, ci sono limiti in autostrada, limiti in città, poi glielo andate a raccontare voi. No, in realtà, anzi, più che una lotta è un aiuto che noi stiamo dando agli automobilisti, perché noi chiediamo di poter toglierci dal traffico, di lasciare a casa la macchina e usare la bicicletta, per cui chi vuole e deve usare la macchina per forza potrà farlo in un traffico molto più leggero e molto più diluito. Sì, ma ecco, insomma, secondo lei questo è fattibile? Cioè, guardandosi intorno, lei se dovesse dare, non so, un orizzonte di tempo, arriveremo a fare una roba del genere in un anno, in 5 anni, in 15 anni? Perché, ripeto, si tratterebbe di un cambio di mentalità notevole, no? Ridurre. Sì, in realtà, come dire, il cambio è già avvenuto. Forse gli unici che non l'hanno ancora capito sono gli amministratori, perché sia i numeri di ieri, ma basta guardare le nostre strade, il numero dei ciclisti è aumentato tantissimo negli ultimi anni. Ci sono dei dati? Avete raccolto qualche cifra per rimpinguare questo ragionamento o no? La cifra che viene data sulla mobilità ciclistica in Italia è intorno al 9% del totale, dello share modale, si chiama, di tutti i movimenti delle persone. Ok, 9%. Però, mi scusi se la interrompo, lei ci racconta anche la sua esperienza, e quella che poi ha trasferito ieri anche dal palco della manifestazione Salva Ciclisti, di questa ciclo-officina ABC che è nata non so quanto tempo fa a Torino, di cui lei è uno dei promotori. La chiamano il primario, perché cosa fate? Intervenite sulle biciclette, cioè aiutate la gente a mettere mano alla meccanica delle due ruote, così favorendo anche un po' di socialità nel quartiere. Sì, assolutamente, nel senso che noi abbiamo le competenze e gli attrezzi che le persone non hanno, e giustamente non ha senso neanche che comprino, perché ci sono anche attrezzi costosi che potrebbero usare una volta nella vita, e quindi inutile spendere dei soldi per avere un'attrezzatura completa. Noi mettiamo a disposizione degli spazi, appunto la nostra esperienza, spieghiamo, aiutiamo le persone a tenere in funzione i propri mezzi, in modo che non siano poi bloccate da una foratura piuttosto che da qualche incidente, per far aumentare sempre di più il numero di ciclisti sulle strade. È sicuramente un luogo di socialità anche, in cui si spiega che la bicicletta può essere usata tutti i giorni per andare a lavorare, può essere usata anche dai bambini, quindi diamo anche delle nozioni di sicurezza per i genitori, per i bambini. È sostanzialmente un nuovo modo di incontrarsi intorno a un tema che è poi quello della bicicletta. Per chi è di Torino, dove vi trovate? Dove vi possono raggiungere? Noi siamo alla casa del quartiere di San Salvario, a Torino, e non sempre, purtroppo, perché siamo dei lavoratori, facciamo altro, quindi vabbè, certo, avete anche fate anche altre cose nella vita, però insomma sabato pomeriggio ci possono trovare lì, se c'è bisogno di riparare la propria bicicletta o fare due chiacchiere passare anche un'ora in compagnia attorno a questo tema della bicicletta. Io la ringrazio, Giuseppe Piras. Prego. Per essere stato con noi. Abbiamo parlato di nuovo della manifestazione Salva Ciclisti e anche di questa iniziativa che riguarda Torino, la ciclofficina ABC. Adesso invece vorrei parlare di un'altra cosa, perché è il momento della nostra rubrica sui consigli dell'Università del Saper Fare, del Movimento per la Decrescita Felice. Vi leggo una notizia di qualche giorno fa, un'interrogazione di un consigliere comunale di Modena che chiedeva di essere rassicurato che nelle mense scolastiche non venisse servito pane precotto surgelato proveniente dall'est Europa, in particolare dalla Romania. L'assessore ha risposto: no, tutto il pane delle scuole modenesi è pane fresco fatto a Modena. Bene, questo è un tema però che riguarda molte, moltissime situazioni. Sulla questione della crescita, per crescere di più, per stimolare la crescita, nuove occasioni di crescita, la crescita Siamo ossessionati dalla crescita economica. Eppure, per vivere bene, non sempre serve spendere di più. Scopri insieme a noi la decrescita felice. Bisogna lavorare duro per guadagnarsi la pagnotta. Così ci dicevano i nostri nonni. Già, ma i tempi sono cambiati. E per come siamo messi oggi, forse la pagnotta conviene imparare a farsela da sé, in casa. Il pane fatto così è buono, è sano e si risparmiano quasi 20 euro al mese. Ce lo racconta Patrizia di Milano. Per quello che riguarda in particolare la pasta madre, abbiamo insegnato a prepararla catturando i lieviti dall'aria. Ed è una cosa abbastanza semplice, perché basta avere della farina macinata da poco tempo, mescolandola con l'acqua, generalmente 100 grammi di farina e circa 80 grammi di acqua danno un panetto abbastanza elastico, che poi si può mettere a far lievitare appoggiato su di un piatto con una scodella che lo protegga, abbastanza grande da permettergli di respirare, perché è proprio dall'aria che i lieviti cadono all'interno della pasta. Bisogna aggiungere un po' di acqua e un po' di farina almeno per 3 volte ogni 24 ore. Non deve assolutamente prendere freddo, perché altrimenti muore. La cosa a cui bisogna fare attenzione è che prima di infornare il pane sia realmente raddoppiato di volume. Il forno dovrebbe essere un forno per il pane. I forni che abbiamo di solito a casa elettrici qualche volta hanno questo tipo di cottura inserito tra le possibilità dei multifunzione, qualche volta no. Allora si può mettere, quando il forno è arrivato a 200 gradi, una scodella piena di acqua all'interno del forno per tenere l'umidità che serve, e quando si è formata una crosticina sulla superficie del pane si può abbassare la temperatura, quindi dopo circa una mezz'ora si può abbassare la temperatura fino a 180 gradi. Avete ascoltato Il pane fatto in casa con la pasta madre. È la decrescita felice e si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Ben ritrovati cari ascoltatori, 800 24 00 24, microfoni aperti e si può fare. Oggi abbiamo parlato in apertura della storia di questo ex disoccupato che ha aperto un centro shiatsu a Padova e offre trattamenti gratuiti proprio memoria del suo recente passato ai disoccupati. Vi chiediamo però a chi offrireste voi un massaggio antistress gratuito, perché insomma i disoccupati sono solo una delle categorie colpite dalla crisi, e stressate, imprenditori, casalinghe senza soldi, precari, insomma. 800 24 00 24. Sentiamo Luigi che ci chiama da Roma. Buongiorno. Buongiorno dottor Alessi. Io sì. Vorrei offrire un bel massaggio shiatsu antistress, sì, al dottor Mastro Pasqua. Sì. Sembra che abbia problemi a spendere 1.200.000 euro di stipendio. Lei forse calcoli intende Mastra Pasqua, 600... Mastra Pasqua, quello dell'INPS. Sì. Sì, sì. Calcoli che io sono un invalido pensionato e prendo 630 euro, però glielo offrirei volentieri. Mm. Grazie, dottor Alessio. Va bene, insomma, il suo intervento ironico ovviamente. Mastra Pasqua, che tra l'altro recentemente è entrato insomma così nel mirino della stampa per i suoi tanti incarichi che cumula e tutti questi stipendi, davvero ci vuole impegno a spenderli, quindi questo ascoltatore si offriva di offrirgli un massaggio gratuito così per risolvere, per stemperare lo stress di questi troppi impegni. E va bene, Giovanna da Roma, buongiorno. Mm. Buongiorno, grazie a tutta la 24. Una piccola segnalazione: abbiamo parlato, sì, oggi di salva cittadini per salva pista ciclabile. Per salva pista ciclisti, la manifestazione di ieri a Roma. Benissimo. Sì. Allora, vorrei dire a queste persone che hanno partecipato, va bene, bravi, va bene, tutto questo. Parliamo però della riva etrusca. Io vorrei invece un'altra manifestazione: salva cittadini per la riva sinistra, quella greca, in modo particolare quella. Dove però? Dove siamo? A Roma? Siamo lungo Tevere d'Estaccio, Roma, okay, proprio nel quartiere, nel cuore romano. Allora, è possibile mobilitare architetti verdi, quelli che vogliono, per togliere tutti i canneti dietro ai muretti, dove incomincia il camping insomma, di tutte le persone nascoste. Ma perché lei vuole togliere questi canneti? Mi scusi, che fastidio le danno i canneti? E ci sono le abitazioni notturne di tutte le persone che non hanno una casa. Quindi è inutile sorvolare dall'alto quando vengono nascoste tutte gli zingari, perché da tutte le persone brave, insomma, quelle che non hanno un rifugio normale, però appunto questo anche cosa c'entri questo con i ciclisti ce lo spiegherai in un'altra puntata. Per la sicurezza, dato che sulla riva destra si faranno tutte queste belle attività, dice occupiamoci anche della riva sinistra in questo occupiamoci modo. Solo per il salva sicurezza dei cittadini, tanto che rientra nella sicurezza, e quindi anche praticamente coinvolgere anche, non so, architetti verdi, non lo so, perché praticamente se non viene spianato tutto il sottobosco verde lì è una continua insediamento. Insomma, Giovanna, grazie. Accogliamo il suo appello, salviamo e riqualifichiamo anche la riva destra delle Tevere di Roma. Grazie, 800 24 0024. Più tardi, altre telefonate. Questa canzone, che per chi si ricorda il video, inizia con una telefonata al cellulare tra due innamorati. Non so se il video possa essere stato ambientato esattamente proprio nella città di Udine, non credo, perché i personaggi sono tipicamente America latineggiati, ma d'altra parte non potrebbe neanche essere possibile, perché a Udine, in questa città italiana, da un po' di tempo a questa parte la vita per i telefonini sta diventando più difficile, perché la notizia è questa: c'è un progetto del comune di Udine che è stato approvato e che prevede di istituire in città zone libere dall'uso dei cellulari, le cosiddette zone cell free, zone pubbliche e anche in zone private per i privati che vorranno aderire. Ne parliamo con Mario Canciani, medico e consigliere comunale di Udine. Buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. Che si trova in Croazia, l'abbiamo raggiunto a un convegno di medici, però insomma ci dà retta qualche minuto, sì, perché ci spieghi esattamente questa, non so, come un progetto, un'ordinanza che avete approvato, diciamo, che cosa prevede? L'idea mi è venuta 3 anni fa, quando al termine di un convegno internazionale c'è stata una cena di lavoro e ho visto che i colleghi scandinavi, prima di entrare al ristorante, hanno chiuso tutti il cellulare. Per cui, tornato a Udine, ho proposto, ho riunito Confesercenti, Confartigianato, albergatori, associazione albergatori, associazione ristoratori, per proporre questo programma, almeno diciamo, quando uno va al ristorante, in modo da stare prima di tutto in pace per non essere disturbato, eccetera, e secondo, ma forse anche ancora più importante, diciamo, non essere disturbato dalle radiazioni e quindi dai campi elettromagnetici. Quindi insomma un'iniziativa un po' a metà tra preoccupazioni per quello che è un misterioso inquinamento da elettrosmog e invece un'iniziativa più allineabile, non so, come ha fatto Trenitalia sui treni, in alcuni treni così, di igiene antirumore, insomma, lei si colloca un po' a metà tra le due cose. Chi è che ha aderito per ora nel vostro comune? Al di là c'è stata una prima fase così un po' di lentezza, ma poi, diciamo, quando siamo passati alla fase operativa, hanno aderito finora 16 ristoranti. Udine è una città che ha 100.000 abitanti, quindi diciamo parliamo solo del centro di Udine, Adesso lo estenderemo anche in periferia, e quindi 16 e un'altra ventina sono interessati, stanno valutando di riservare o tutto il ristorante o una sala a chi non vuole essere disturbato dai cellulari e dai campi elettromagnetici, quindi wireless, altre forme di trasmissione delle onde. Ecco, tra l'altro, a proposito di onde, sappiamo che di dati sugli effetti magari negativi causati dall'uso dei telefonini non ce ne sono, dicono che non bisogna preoccuparsi, sembra che non ci si debba preoccupare, però sembra. No, questo bisogna dire non è vero, non è vero, cioè nel senso che 6 mesi fa sia l'OMS sia l'Istituto Internazionale del Cancro di Lione hanno detto che verso le radiazioni elettromagnetiche, le onde elettromagnetiche, quelle utilizzate dai cellulari, bisogna avere un comportamento precauzionale, cioè 2B. Cosa vuol dire? Vuol dire che gli studi sono in corso, ma però ci sono delle evidenze che potrebbero far male. Perché gli studi precedenti non erano dirimenti? Perché si pensa che per dar danni uno deve stare un periodo prolungato di anni, e si dice almeno 20 anni, o se no stare per periodi più brevi, però per più ore al giorno. Si dice 20 anni, un'ora al giorno di cellulare o stare vicino a campi sì. elettromagnetici, ci dovrebbe essere un rischio aumentato. Senta, lei, di tumori, ecco, appunto, soprattutto perché... per i bambini. Quindi la sua preoccupazione è anche relativa ai bambini, però si parla molto per esempio del wireless, come si festeggiano le zone wireless, sì. finalmente tutti connessi. A livello di radiazioni com'è il wireless? Diciamo, sicuramente meno che meno. Star vicino a un'antenna, no? Sì. Ma rispetto al cellulare, però, per esempio? Anche questo è un irraggiamento, anche il cordless per esempio. Ma rispetto al cellulare, mi scusi, le wireless? Prego? Rispetto al cellulare, il wireless, come le risulta essere? Eh beh, di più, perché devi distribuire a tanti altri cellulari, no? Mm. E quindi diciamo, poi dipende dalla zona, cioè il cellulare, contrariamente a quel che si pensa, più tacche ha, meno radiazioni rilascia. Meno tacche ha e più deve attirare l'onda elettromagnetica, per cui scarica molto di più sul nostro orecchio. Insomma, lei conta di fare proseliti anche altrove? Perché io le volevo chiedere dove si era ispirato, onesto, però poi me l'ha detto. Sì. Non pensavo che ci fosse un... mi ha scritto un amico, un collega ginevrino, che anche nei giornali della Svizzera è comparsa, non solo della Svizzera francese, ma anche della Svizzera tedesca, è comparsa questa iniziativa, in Italia la gran parte dei giornali ha riportato, il TG2 ha fatto un bel servizio. Sì, insomma, un po' di attenzione. Va bene, Canciani, allora ringraziamo medico consigliere comunale di Udine per averci raccontato questa iniziativa della sua città, e poi vedremo se sarà raccolta anche in altre città. Adesso però vorrei leggervi una notizia dalla prima pagina del Fatto Quotidiano: nelle banche svizzere 50 miliardi che Monti non vuole. La notizia è che la Commissione Europea ha detto che gli accordi della Germania, dell'Austria con la Svizzera per recuperare i soldi in Svizzera sono conformi alle normative. Sentite cosa ci aveva scritto, cosa ci aveva telefonato qualche tempo fa un ascoltatore alla segreteria telefonica. Buongiorno, sono Giuseppe da Milano. Volevo dire che una cosa che non riesco a spiegarmi, proprio è incredibile, è questa: come mai il governo Monti, nonostante la Germania e l'Inghilterra l'abbiano fatto senza che nessuno avesse nulla da dire, questi hanno imposto una tassa sui depositi svizzeri dei loro paesi, che gli sta fruttando 15-20 miliardi di euro all'anno per 5 anni, fin quando entrerà in funzione la legge sull'anonimato, e questo è diventato un alibi per Monti. Per dire, sapete, io non posso farlo, l'Europa così non vuole, ma chi gliel'ha detto? Questo già equivalrebbe a metà della manovra, soldi che potrebbero essere dati alle imprese, alla gente e non so chi altro. Lasciate anche voi un messaggio alla segreteria telefonica di Radio 24 al numero 828 12 12. La vostra ricetta per salvare l'Italia in un minuto. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Cari ascoltatori, ben ritrovati. 800 24 00 24. Oggi vi abbiamo domandato, siamo partiti dalla storia di questo ex disoccupato che offre trattamenti shiatsu gratuiti memore del suo difficile passato ai senza lavoro, e allora vi chiediamo però: a chi offrireste un massaggio antistress in questo periodo difficile? Imprenditori, disoccupati, precari, casalinghe? Sentiamo cosa ci dice Giovanni, che ci chiama da Cagliari. Buongiorno Giovanni. Buongiorno. Prego. Io un'idea ce l'avrei. Praticamente bisognerebbe dare un bel massaggio a tutti quei politici che mangiano a sbaffo, e in un modo molto particolare, come fanno i maniscalchi nel Nuorese quando c'è una malattia della pelle. Io ho visto qualcuno prendere del grano, squagliarlo e fare una bella crema bollente. Praticamente sono le stesse pene che stanno provando gli italiani in questo momento. Mi scusi, cos'è che fate, che squagliate esattamente? È squagliato col ferro caldo. Ma cosa? Sì, Praticamente si squaglia col ferro caldo e la brace. Sì, cosa? Non ho capito che cosa si squaglia. Mi scusi, Giovanni, no? Ripeta perché io mi sono perso un attimo. Lei che cos'è che squaglia col ferro caldo? Il grano. Il grano? Il grano, sì, appena mietuto. Il grano quando si mette sul ferro caldo, si spalma come una crema sulla pelle. E questa è una tradizione di Nuoro? Come? Questa è una tradizione di che città? No, no, questo l'ho visto fare da un maniscalco del Nuorese, ah, per una malattia della pelle. E siccome è uno stregone, un santone, che cos'è? Sì. E quindi vorrei far provare le stesse pene che provano gli italiani in questo momento con il salassi delle tasse, praticamente. Ho capito, insomma, lei vuole offrire più che un trattamento gratis, vuole offrire una pena gratis a qualcuno. Grazie ai politici, insomma, naturalmente. Giovanni da Cagliari per questo intervento. 800 24 00 24, non so se per oggi sentiremo altre telefonate. Jimmy, ossa di plastica, stile da sette di cuori. Si dice in giro che nella vita ne abbia già viste di tutti i colori. Il sistema nervoso in tre quarti di rum ed una di veleno ti può dare una mano gratis, spaccarti la faccia per molto meno. Un dottore ha trovato qualcosa di strano. Un brano di Paolo Bonfanti, bluesman genovese, autore tra l'altro, ma non è questa la canzone, di Zero Emission Blues, il primo concerto blues a impatto zero, perché è stato realizzato in una chiesa al lume di candela senza amplificazione, un progetto sposato dall'amministrazione comunale di Mirabello Monferrato che l'ha organizzato ed è solo una delle tante iniziative originali e improntate alla sostenibilità di questo piccolo comune, 1300 abitanti in provincia di Alessandria, che in questi giorni, a giovedì fino a oggi compreso, ospita tra l'altro la scuola di altra amministrazione promossa dall'associazione Comuni Virtuosi. Salutiamo Luca Gioanola, sindaco di Mirabello Monferrato, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti e grazie di questo collegamento. Eccoci qua, allora, cittadini e amministratori che si incontrano, fanno un po' di passaparola sulle buone pratiche, perché questa iniziativa è promossa dall'associazione Comuni Virtuosi. Prima di tutto ci racconti poi di che cosa state parlando in questi giorni, ma scuola di alta o altra amministrazione, perché giocate sulla R della parola altra nel titolo, ci spieghi un po'? Sì, giochiamo proprio sulla R, perché si tratta di proprio un gioco di parole tra altra e alta amministrazione, perché si punta proprio a esperienze pratiche che sono già state praticate da diversi comuni sparsi un po' in tutta Italia, quindi non si fanno discorsi su teorie. Si parla anche di cose teoriche, ma si riportano numeri, risultati ottenuti, con ponte nelle Alpi con la raccolta differenziata al 92%, sì, mi viene da dire, con capannori, col bilancio partecipativo e così via. Abbiamo sentito un applauso poco fa alle sue spalle, c'è qualcuno che sta parlando adesso? Sì. In questo momento sta appena finito di parlare Luca Mercalli, che conoscono bene tutti, molto impegnato negli aspetti ambientali direi di tutto il nostro pianeta a livello planetario, e adesso sta parlando Ezio Orses, che è l'assessore all'ambiente del comune Ponte nelle Alpi, il comune più reciclone, sì, d'Italia. Insomma, scuola di altra amministrazione, altra perché fate cose diverse magari dagli altri comuni, pratiche originali, alta perché voi pensate che queste pratiche siano più sostenibili, virtuose. Non a caso l'associazione si chiama Associazione dei comuni Virtuosi. Ci vuol fare qualche altro esempio di queste pratiche virtuose? Quanti siete tra l'altro fra sindaci, amministratori e cittadini presenti in questi tre giorni? Allora, in questi tre giorni abbiamo avuto più di 350 iscrizioni effettive, sì, di cui circa 200 studenti e 150 amministratori, cittadini e anche funzionari pubblici un po' da tutta Italia, dalla Sicilia, dalla Puglia, dal Lazio, fino al Veneto, al Piemonte, insomma. E quindi il passaparola sarà soprattutto fra amministratori, ma anche tra amministratori e studenti. Qual è il tema che è andato un po' per la maggiore? Non so se ne avete avuto uno in questi tre giorni. Certo, la gestione dei rifiuti sicuramente la fa da padrona. e poi secondo la gestione del territorio, con un'attenzione alla trasformazione del suolo, un'attenzione particolare ai centri storici dei nostri comuni che sono da rivalorizzare, con servizi, con attenzione, con aiuti. E quindi questi due argomenti, direi, gestione del territorio e gestione dei rifiuti. Beh, rifiuti, insomma, poi, un tema sempre caldo. Sindaco Gianola, sì. Noi abbiamo parlato anche dei disoccupati, no? Insomma, sì. Non so se voi lì avete qualche sconto, qualche iniziativa a favore dei disoccupati, perché noi abbiamo parlato di iniziative di solidarietà di privati, però ecco, su questa cultura dell'assistenza forse non c'è molto. Voi avete qualcosa lì? Sì, abbiamo qualcosa. È già partito Capannori, partiamo noi con un progetto prossimo mese di politiche giovanili, di riscoperta di lavori che non si fanno più, destinati a giovani tra i 18 e i 25 anni. Partiremo con un ragazzo che andrà a lavorare da un falegname, uno da un fabbro, uno da un idraulico. Questo sarà propedeutico perché dal 1 gennaio apriremo un centro del riuso, quindi quello che viene ritenuto ormai non più utile in casa, non viene soltanto avviato al riciclaggio o al rifiuto, ma anche al riuso, attraverso professionalità che andremo a formare con giovani tra i 18 e i 20 anni. Dobbiamo salutarla, sindaco, sarebbe bello rimanere a parlare con lei, ma il tempo è tiranno, c'è il giornale radio. Grazie a Gian Gabriele Lombardo per l'assistenza a questa puntata, in redazione Valeria Bernardi, in regia Andrea Piana, che ha scritto con me il programma. Buona domenica a tutti.